Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ieri, 1 marzo, Lucio Dalla è mancato colpito da un infarto a Montreux, in Svizzera, dove era impegnato per una tournée. Destini incrociati vuole ricordarlo riproponendo la puntata che lo vede protagonista, insieme a Pupi Avati. Come ogni film, anche ogni vita ha una colonna sonora. Il suono, il ritmo, la melodia sono una fonte inesauribile di stupori, di desideri e di passioni. Perché la musica è parola, memoria, è un traghettatore di sensazioni. Ci sono esistenze più classiche, altre più rock, alcune sono elettroniche. Ma la storia che raccontiamo oggi a Destini Incrociati è puro jazz. Il jazz esce dalla pancia. È istinto e improvvisazione, vive di emozioni forti, alterna alti e bassi e si diverte coi virtuosismi. Coinvolge e travolge e illumina chi lo suona e chi lo ascolta, come succede nel film La leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore. Che cos'era? Non lo so. Quando non sai cos'è, allora jazz! Jazz! Siamo a Bologna, la vecchia signora dai fianchi un po' molli cantata da Guccini. Bologna la dotta, perché c'è la storica università. Bologna la grassa, per la sua cucina sostanziosa e opulenta. Bologna la rossa, per il colore rossastro delle sue case. Sono gli anni 50, la televisione in Italia è appena arrivata e ce l'hanno ancora in pochi, quindi ci si incontra in giro, in piazza. Le donne la sera non escono da sole, anzi, sulle più spudorate che provano a farlo si alzano commenti maligni, mentre gli uomini prendono la bicicletta e percorrono le strade del centro storico con i ciottoli intatti, costeggiate da portici e vecchie osterie, e raggiungono gli amici al bar per parlare di politica, commentare le ultime notizie della Gazzetta e giocare a carte. Non è un caso se un bolognese doc, lo scrittore Stefano Benni, descrive quel mondo in quello che è probabilmente il suo libro più famoso, dal titolo eloquente, Bar Sport. Il bar per me non è un posto dove si va a prendere il cappuccino, è il luogo della narrazione, dove la gente si incontra e racconta le storie. Quindi sì, in questi, anche se sono libri diversi, in Bar Sport io racconto storie, diciamo, di una provincia italiana, che era quella che io guardavo un po' a bocca aperta quando avevo 12-13 anni in un piccolo paese di montagna, probabilmente bar che sono diventati molto rari, come i panda, però in qualche provincia possono ancora esistere. Poi ovviamente la televisione li ha distrutti, non voglio parlare della televisione, ma il luogo della narrazione che era teatrale, lì, quando la televisione arriva lì è un maestro che ingoia l'attenzione di tutti e quindi se voi guardate lì non avete poi voglia di raccontare. Bologna è piena di bar, di quei caffè storici con le caramelle Elac in primo piano, in cui il barista sa tutto di tutto, in cui si parla più in dialetto che in italiano, in cui ci si contende il giornale del mattino fresco di stampa. Tutti al bancone chiedono il solito, perché vanno sempre lì, perché è il loro punto di riferimento, perché se si va da soli si incontra sempre qualcuno che ha qualcosa da raccontare. Uno di questi locali è il mitico bar di via Saragozza, che un ragazzino vede dalla finestra di casa. Osserva all'andirivieni cosa succede all'interno e sogna da grande di andarci anche lui. È un grande regista, autore di film indimenticabili, naso importante e barba bianca. Nel bar ha imparato a inventare, ascoltare e vivere. Il suo nome è Giuseppe, ma da tutti è conosciuto come Pupi Avati. Pupi Avati. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchiere di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. Il bar di via Saragozza a Bologna ha delle regole rigidissime, una specie di divertente e goliardico codice d'onore stanziato dagli avventori storici. 1. Non si portano mogli, madri, sorelle, figli e nipoti. 2. Se ti metti con una che non ti fa più venire al bar, si avvia all'organizzazione per fartela mollare. 3. La squadra del bar è il Bologna Football Club e tutti ci tengono a sentire le partite alla radio, quando vince e quando perde. La bandiera del Bologna è appesa ogni domenica a una colonna del portico. 4. Le donne si chiamano penne. Quando ne passa una, anche se è brutta, quelli del bar la devono guardare e commentare. 5. A quelli del bar è proibito andare in gita ai santuari sui pullman con il mangiare nelle sporte e la bottiglia dell'acqua e limone. 6. Anche se piove forte, nessuno va al bar con l'ombrello. Il giovane Pupi non vede l'ora, le calde sere d'estate in cui il ventilatore gira dalla mattina alla sera in canottiera, ciabatte e calzoncini, di portare la sedia sul bancone per sbirciare cosa succede al bar. Spesso con lui c'è anche suo fratello più piccolo, Antonio, che come tutti i secondogeniti lo venera. E voi sapete che andiamo sempre d'accordo su tutto, quindi è una cosa... Ogni sera è un'avventura. Incontri più o meno loschi sullo sfondo delle pubblicità del Campari appese al muro, partite a biliardo, gelati confezionati dentro il frigorifero rettangolare che si apre verso l'alto, storie d'amore clandestine di cui sono a conoscenza tutti ma di cui tutti fanno finta di non sapere niente. Quando è pronto a tavola, la mamma deve urlare per chiamare i ragazzi che non si vogliono staccare dalla ringhiera. È una famiglia felice, la famiglia Avati, che gode di un benessere senza ostentazioni tipico del dopoguerra. Sono gli anni del boom e poco alla volta, mentre per le strade si vedono le prime Fiat 500, nelle case entrano gli elettrodomestici. Qualcuno comincia anche ad andare al mare e sempre di più le vacanze diventano alla portata di tutti. Abbacinata dal sole, dall'azzurro e da un verde smeraldo, Ischia accoglie domenicalmente numerose comitive che si sparpagliano per ogni dove a godersi le inestimabili bellezze dell'isola. Pupi è un ragazzino vivace che viene spesso preso per le orecchie. Si diverte a fare scherzi, a disturbare. È irriverente e leggero, ma soprattutto è molto genuino e per un amico è disposto a fare qualsiasi cosa. È legato alla sua città, alla sua famiglia e alla sua casa, tanto che anni dopo, quando ci ritorna, prova un'emozione immensa. Lo sentiamo dal racconto di una giornalista. Sono tornato in via Saragozza, nella casa dove abitavo quando ero ragazzo, ha rivelato Avati all'anteprima bolognese del film. E, contrariamente a quanto succede di solito, mi è apparsa molto più grande e bella di come la ricordavo. Forse aveva ragione mia mamma quando diceva che falsavo la realtà, dipingendo la mia famiglia e la mia giovinezza più povera e misera di quello che realmente era. Non è strano per Pupi ingrandire le circostanze, gonfiare gli eventi, inventarsi storie prendendo spunto dalla quotidianità. Lo fa sempre, mescolando un talento naturale, una predisposizione al racconto con la frequentazione del bar, che da una certa età in poi diventa legittima. Il processo creativo lo racconta lui stesso. Sono le storie che chiedono di essere raccontate, non io che le scelgo, quindi quelle che sono più insistenti, che si presentano e si propongono in modo più convincente, poi diventano delle storie, quelle che mi toccano di più, mi commuovono di più, mi emozionano di più. La sua strada, vista questa attitudine, può sembrare ovvio che fosse quella del cinema. E infatti così è stato, perché Pupi Avati ha girato numerosi film di successo ed è considerato da pubblico e critica uno dei più grandi maestri italiani. Eppure il suo percorso non è stato lineare. C'è voluto uno smacco del destino per indicargli la giusta direzione, perché Pupi all'inizio sognava di diventare un musicista. Pupi alla fine degli anni 50 frequenta l'università, facoltà di scienze politiche. È bravo, incline alla goliardia, ma metodico quanto basta per passare gli esami con successo. Non si sa se più per orgoglio personale o per compiacere mamma e papà, così fieri di avere un figlio laureato. È molto legato a loro e sente profondamente di avere raccolto la loro influenza. L'abbigliamento, il modo di esprimersi, il modo di muoversi, a come... anche quello che si mangia. Mentre studia, si dedica al jazz, che ha scoperto pochi anni prima, da adolescente, quando faceva parte degli scout, e i dirigenti di Bologna avevano tentato di boicottare la sua entrata da primo clarinettista in una piccola band, fino all'ultimatum: o gli scout o il jazz. Pupi non ci aveva pensato un momento e aveva scelto la musica. Precipizio, non ci si può lamentare. Bologna ha una grande tradizione jazz. È stata una delle prime città italiane in cui è esploso l'amore verso questa musica, in cui hanno aperto i battenti i primi club, in cui era possibile vedere all'opera i mostri sacri d'oltreoceano. Il suo festival, il Festival di Bologna, è stato insieme a quello di Sanremo l'antesignano di tutte le rassegne che oggi popolano la nostra penisola. La città poteva contare su un pubblico affezionato che seguiva tutte le manifestazioni e su un grande numero di artisti, manager e organizzatori. Soprattutto a Bologna c'erano numerosi jazz club, locali specializzati, molti dei quali esistono tuttora, con le loro atmosfere un po' cupe e malinconiche che siamo abituati a pensare a New York. Ecco come raccontano la magia di quelle serate alcuni bolognesi che le hanno vissute. A New York e a Bologna era possibile una cosa del genere, basta. Ci passavano personaggi pazzeschi. Quando ci sono arrivato, mi sono trovato nel mezzo di una vera scena del jazz. Ognuno veniva qui e diceva quello che c'era da dire musicalmente, nel puro stile bebop di allora. Respiravi jazz in tutta la città. Pupi Avati è un clarinettista molto bravo, si esercita ogni giorno chiuso nella sua stanza e spera che la sua passione possa diventare la sua vita. Sapevo che avevo talento, forse mi sopravvalutavo anche un po', ma ero convinto che sarei diventato il nuovo Benny Goodman. L'occasione non tarda ad arrivare. Quando una sera va a un concerto con alcuni compagni di università, si ferma a chiacchierare con la band e il leader gli propone di provare a suonare con loro. È l'inizio del magico momento di Pupi con la Reno Dixieland Band, che oggi si chiama Dr. Dixie Jazz Band, fondata dal trombettista Nando Giardina. Un momento indimenticabile che Pupi ricorda con una velata nostalgia. Le aspettative di un gruppo di ragazzetti nella Bologna negli anni 50 che si illusero di diventare degli straordinari musicisti. Ogni sera un locale diverso, jazz club fumosi e postacci di serie B, furgone carico di strumenti e palchi sempre troppo piccoli per contenere tutto il gruppo, ma comunque perfetti per dare vita al sogno. Pupi è l'uomo più felice del mondo, fa quello che gli piace. Non importa se ha studiato scienze politiche, non importa se i suoi genitori lo vorrebbero impiegato in un lavoro serio. Basta suonare jazz, perché il jazz è come una droga. O ce l'hai dentro o non ce l'avrai mai. La Reno Dixieland Band, piano piano, diventa molto famosa, prima a Bologna e poi fuori. I musicisti che si sono conosciuti all'università sono dilettanti e fanno tutt'altro nella vita, ma riescono a proporre un jazz tradizionale e Dixieland di così alto livello che vengono chiamati nei più grandi festival d'Europa, fino ad arrivare a suonare con jazzisti di fama mondiale come Louis Armstrong e Jerry Mulligan. Per Pupi è una magia. Ogni volta che salivo sul palco ero inebriato. Sentivo la gente che vibrava, vedevo che muovevano tutto il corpo e non riuscivo a credere di essere io l'artefice. Tra i ragazzi ogni tanto c'è qualche screzio, scoppia qualche litigata anche, ma fondamentalmente si va tutti d'accordo. È importante perché si passa moltissimo tempo insieme, è quasi una convivenza coatta in cui lo spazio è condiviso. E così quando arriva il momento di includere nuovi membri nella band, ci si mette seduti a tavolino e lo si decide tutti insieme. Sala prove, strumenti in giro sparsi per la stanza e l'immancabile bottiglia di vino rosso compagna di tante avventure. Sulla porta di legno, un cartello scritto a mano che indica quella che è un'audizione piuttosto spartana per la scelta di un nuovo clarinettista. Non che quel foglio sia fondamentale, Bologna è una città in cui si sparge in fretta la voce e si è già formata la coda dei pretendenti. Pupi è felice che arrivi qualcuno a rafforzare il suo strumento e con gli altri inizia i provini. Con un po' di presunzione acquisita dal recente successo, gli aspiranti nuovi membri vengono considerati dai vecchi non all'altezza. Su alcuni si improvvisa anche qualche sfottò. Non è cattiveria, semmai goliardia creata da un profondo affiatamento. Ma proprio mentre tutti stanno ridendo di un candidato appena liquidato e assolutamente negato per il jazz, entra un ragazzo che ostenta sicurezza, barba scura e fisico asciutto. Pupi Avati istintivamente prova antipatia, lo trova supponente. Ancora non sa che quell'incontro, nel bene e nel male, cambierà il corso della sua vita. Tra poco, a destini incrociati. And I hear me just, I whisper all of you, I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nella Bologna degli anni 60, quando ancora la rivoluzione studentesca è lontana e i ragazzi si divertono con il jazz. Pupi Avati, dopo essersi laureato in scienze politiche, suona nella Rino Dixieland Band, che sta riscuotendo grande successo a Bologna e fuori. Il suo strumento è il clarinetto, così piccolo nelle sue mani da ragazzone, ma che riescono a toccarlo con una delicatezza impressionante. Il clarinetto è mitico, affascinante e molto popolare, sia per la diffusione nelle bande di strumenti a fiato, sia per la sua versatilità, che ne fa un grande protagonista in quasi tutti i generi musicali. Il regista Woody Allen, maestro del jazz, ha assunto il suo pseudonimo proprio in onore del clarinettista Woody Herman, mentre Dylan Dog, il celeberrimo personaggio a fumetti partorito dalla fantasia di Tiziano Sclavi, lo suona in modo alquanto fastidioso, soprattutto per le orecchie del suo assistente Groucho. È uno strumento, il clarinetto, che ha bisogno di accompagnamento, perché ha un suono in qualche modo sottile, povero, da aiutare. In una grande jazz band spesso ce ne vuole più di uno, e la Rino Dixieland Band sta cercando il suo secondo. Ma i provini sono tutt'altro che facili, come racconta Avati. Eravamo sulla cresta dell'onda, ci chiamavano ai concerti, ai festival. Eravamo finalmente usciti da Bologna e volevamo avere il massimo, acquistare un'altra carta vincente. La carta è un ragazzo piccolo di statura, con la barba incolta e un'aria altezzosa che suscita in chi lo vede nervosismo e antipatia. Sorride poco e parla ancora meno. Sembra pensare: se mi volete sono qua, ma se non mi prendete non sapete cosa avete perso. L'istinto è quello di cacciarlo, ma gli basta accennare qualche nota perché tutti rimangano a bocca aperta. È davvero strabiliante, non c'è bisogno di sapere altro per accoglierlo nella band. Il suo nome è Lucio Dalla. Lucio Dalla. Ma a me mi fa sempre una sorta di cosa, che lui è sempre più pronto di me. È Renzo Arbore a parlare di Lucio Dalla. Lui non ha bisogno di grandi presentazioni, è uno dei più noti cantautori italiani, prolifico e con una carriera costellata di successi che dura da 50 anni. Ma se il suo talento naturale è indiscutibile sotto gli occhi di tutti, è altrettanto vero che è sempre stato il destino a portarlo dov'è adesso, nell'Olimpo della musica. Lucio Dalla nasce nel 1943 a Bologna, giorno 4 marzo, come una delle sue più belle canzoni e forse quella a cui è più legato. Ho imparato, credo, abbastanza bene, ho imparato ad amare il lavoro di fare canzoni da 4 marzo in poi, perché rimasi molto colpito dal successo che regalò alla gente la canzone, non me l'aspettavo. È un bambino scontroso e sicuro di sé, già con una netta predisposizione artistica, tanto che gli importa molto più conoscere la musica che stare con i suoi coetanei. È lui stesso a ricordarlo. Avevo 7 anni e andai a cantare nella stagione del Comunale di Bologna, Gianni Schicchi, facevo la parte di un bambino di 7 anni. Fu la prima volta che incontrai la musica di Puccini, rimasi entusiasta e poi cominciai col jazz e poi con il canto. Sua madre, di origini pugliesi, lo porta sempre a trovare amici e parenti. Ed è qui che nel 1953, quando ha 10 anni, anche se non se ne rende conto, ha il primo grande incontro della sua vita. Come sempre irrequieto e con grande voglia di mettersi in mostra, si esibisce nei teatrini parrocchiali. Ma padre Pio gli impone di non salire più sul palcoscenico, pena la dannazione eterna. Lucio decide di ignorare il divieto e di applicarsi con grande dedizione alla musica, trascurando del tutto gli studi scolastici. Ragioneria, liceo classico e poi liceo linguistico, un percorso non lineare, incompleto, fino alla più ironica delle dichiarazioni. Il mio titolo di studio è il battesimo. Lucio Dalla è un ragazzo quando Bologna brulica di jazz club e inizia a frequentarli con assiduità. Spesso giudica gli artisti in modo impietoso, un po' per l'invidia di chi vorrebbe stare sul palco e un po' per la consapevolezza di suonare il clarinetto molto meglio di chiunque. Quello che fa filu filu filu fila, metti che lei non è un artista e con la musica non prova alcun diletto. Il clarinetto si butta un po' giù. È sua madre che ha regalato a Lucio il primo clarinetto, all'età di 13 anni, e ci ha messo pochissimo a imparare a suonarlo. D'altra parte è da sempre un grande sperimentatore, eclettico e con la voglia di provare. La cosa divertente è che quello che non hai mai fatto crea un problema proprio di comunicazione con gli altri, e soprattutto anche tra te e te. In me invece succede esattamente il contrario. Quello che non ho mai fatto mi dà un'effervescenza, una curiosità. I suoi miti sono i grandi jazzisti americani, voci profonde e forte istinto, proprio come Ella Fitzgerald, per la quale la vita è nulla senza la musica e la musica è nulla senza la vita. I have listened to so much beautiful jazz. Il jazz non si può scrivere. Esce dalla pancia, da quello che stai provando in quel momento. Non si può dire cos'è. È la tua esperienza, la tua storia, la tua emozione. Il tuo jazz sei tu. Lucio Dalla è un purista della musica e ha un atteggiamento anche un po' snob. È convinto che le note parlino da sole e le canzoni con le parole siano soltanto per chi non riesce a esprimersi con la sola melodia. Un musicista jazz molto giovane, mi sono molto divertito e guardavo un po' dall'altro la musica leggera, i canzonettari. Ecco. Poi amico di Gino Paoli mi ha convinto a cantare perché intanto schettavo, sai lo scherzo. E allora dice, dai, facciamo uno scherzo, cantiamo, e da lì ho cominciato. Lo scat, una specie di gorgheggio virtuoso, è forse la sua più grande caratteristica vocale. Si tratta di una forma di canto quasi sempre improvvisato, appartenente alla cultura musicale del jazz, e non è altro che l'imitazione di strumenti musicali con la voce. Per questo non prevede l'uso di parole compiute, ma di suoni privi di senso dal suono accattivante, che il cantante utilizza in chiave ritmica, oltre che melodica. I brani in cui si può ascoltare lo scat sono di solito veloci e allegri, e molto spesso succede che venga usato in chiave grottesca e caricaturale. Se ne attribuisce la paternità, o quantomeno la diffusione, a Louis Armstrong verso la metà degli anni 20. Ma fra quelli che ne hanno sviluppato maggiormente le potenzialità ci sono nomi del calibro di Cab Calloway, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, il grande mito di Dalla. Ad esplorare lo scat in Italia non sono stati in molti. Lucio Dalla è uno dei pochi e l'ha fatto diventare il suo marchio di fabbrica in un momento in cui la musica in Italia era in grande fermento. Siamo nel pieno degli anni 60, il decennio caratterizzato dal più importante rinnovamento generazionale che il secolo scorso abbia mai visto. Mentre in Gran Bretagna imperversano i Beatles e i Rolling Stones, in Italia l'uomo che svetta in cima alle classifiche è l'eterno ragazzo Gianni Morandi. Esplodono prima In ginocchio da te, che diventa anche un film. Poi Non son degno di te, che consacrano definitivamente al successo il giovane talento di Monghidoro. Nascono nuovi miti come il Piper, noto locale romano che diventa in breve la nuova culla del beat, e Caterina Caselli spopola con La ragazza del Piper. Due giovanissimi talenti radiofonici, Gianni Boncompagni e Renzo Arbore, fanno faville con il programma Bandiera Gialla. Questa che avete ascoltato era la voce ufficiale della RAI. Zingara vince il Festival di Sanremo e innalza agli onori del successo Iva Zanicchi e Bobby Solo, mentre nasce il sodalizio storico tra Lucio Battisti e Mogol, una sinergia che regalerà alla musica italiana emozioni indimenticabili come Un'avventura, Acqua azzurra, acqua chiara e Mi ritorni in mente. È l'esplosione del mercato discografico italiano, un momento magico di cui Lucio Dalla diventa uno dei protagonisti. Soprattutto grazie all'incontro che ha accelerato il suo destino, quello con Pupi Avati. Siamo a Bologna e un giovane Lucio, promettente ma alle prime armi, ha appena suonato di fronte ai membri della Reno Dixieland Band, che stanno cercando un nuovo clarinettista da affiancare a Pupi Avati. Già con le prime note Dalla è convincente. È sicuro di sé al limite della presunzione, ma il suo talento incredibile è sotto gli occhi di tutti. Presto farà parte del gruppo. Lucio e Pupi incrociano gli sguardi. Sfoggiano entrambi un sorriso di circostanza. Bisogna mostrarsi felici di suonare insieme, ma tutti e due sanno benissimo che non c'è abbastanza spazio. Qualcuno dovrà lasciare il suo posto. Quando ero soldato, allora sì, che era bella la vita anche per me. 15 mesi senza problemi in casa mia. Quando ero soldato, beato me, mangiavo e bevevo meglio di un re. Destini incrociati. A Destini Incrociati la sorte ha appena fatto incontrare due promettenti clarinettisti, Pupi Avati e Lucio Dalla. Entrambi fanno parte della Rino Dixieland Band, gruppo jazz bolognese che sta avendo molto successo. Ma mentre Pupi suona con i ragazzi da diverso tempo, Lucio è il nuovo arrivato. All'inizio non è difficile per i due collaborare, anzi la competizione latente che aleggia non fa altro che alzare il livello delle performance. Ma dopo un po' l'attenzione di tutti si sposta da Pupi a Lucio. È un vero talento, bravissimo, inarrivabile. Davvero troppo per il povero Pupi che si deve arrendere all'evidenza. A sentire Lucio che suonava, ho capito che c'è una grande differenza tra passione e talento. Io amavo così tanto il jazz e il clarinetto che pensavo potesse bastare per fare quel mestiere. Ma per colpa, o forse per merito di Dalla, mi sono accorto che non era così. Lucio Dalla è l'incontro del destino che cambia la vita a Pupi Avati. Avati lascia la band, smette di suonare e per il grande senso di fallimento decide che è arrivato anche il momento di abbandonare la sua Bologna, quella città in cui era cresciuto e che gli aveva fatto scoprire la gioia della musica e che adesso gli era diventata così ostile. Roma è la sua destinazione. Il mio allontanarmi da Bologna, il mio andare a venire a Roma, il mio poter vedere finalmente con occhio disincantato e tuttavia affettuoso quella città, quel tempo, quella gente, senza il condizionamento di esserci dentro. Per un lungo periodo rifiuta totalmente la musica. Non solo non si esercita, non l'ascolta neanche più. Tutto gli ricorda la delusione, la frustrazione di non avercela fatta. Occupa il suo tempo libero a guardare film, a scoprire il vecchio cinema straniero e dei grandi maestri italiani. Il suo preferito è senza dubbio 8 e mezzo di Federico Fellini. C'è un regista che ha avuto la responsabilità, attraverso i suoi capolavori, di farmi capire che il cinema sarebbe stato lo strumento con il quale esprimermi, Federico Fellini. A certi suoi film debbo questa scelta professionale, a uno in particolare, 8 e mezzo. In questo film ho visto la certificazione più attendibile, più approfondita e accurata del potenziale di un mezzo espressivo come il cinema. Si racconta in modo esaustivo e seducente chi è il regista e quale sia il suo rapporto con il mezzo tecnico. Fellini, tra l'altro, è un mio conterraneo. Probabilmente anche per questo ho avvertito più forte l'affinità con lui. Pupi Avati comincia a fare cinema e piano piano scopre che è quella la sua vera strada. L'ha scoperto grazie all'incontro con Lucio Dalla, che gli ha aperto gli occhi su quale fosse il suo vero talento: raccontare storie, quello che ha sempre fatto fin da bambino, quello che continua a fare dopo decenni di carriera. La storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione, la storia siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. Mentre Lucio Dalla suona ancora per un po' nella Rino Dixieland Band e poi decolla nella musica italiana grazie al suo inarrivabile talento, Pupi Avati, che gli ha ceduto il posto come clarinettista, diventa un grande regista. Per molto tempo odia Lucio, perché incarna il suo fallimento come musicista, al punto da dichiarare senza problemi che una volta, mentre erano insieme a Barcellona, aveva provato il forte istinto di spingerlo giù dalla Sagrada Famiglia. Ma poi si rende conto che in realtà a Lucio deve la sua carriera, perché grazie a lui si è scoperto che la sua strada sarebbe stata il cinema. Il suo debutto lo ricorda con un aneddoto, come al solito legato a uno dei luoghi che in generale ama di più, il bar. Entrai in un bar, dove non ero conosciuto, e chiesi qualcosa, mi ricordo, e la barista disse: c'è qualcuno che si chiama Avati qua? Io dissi: io perché? La voglio al telefono, da Roma. Da Roma, vado al telefono da Roma. Era una cosa in attesa. Pronto? Avati? Sì? De Laurentiis, Roma, le passa il dottor Dino. Ti rendi conto di quel momento che è stato per me? Pronto, pronto, ecco il dottor Dino, glielo passo, eccolo. Una pernacchia generale di tutto il bar. Avati inizia a sfornare un successo dietro l'altro, fino a diventare uno dei più grandi maestri italiani, riconosciuto e apprezzato da pubblico e critica. Dopo l'esordio nell'horror di serie B, si dedica alla commedia, talvolta con retrogusto amaro, perché la considera il genere che meglio può raccontare le storie italiane. Secondo me il cinema ha contribuito a creare soprattutto una memoria storica che gli storici non sono stati capaci di costruire. Se noi vediamo certi film, certe commedie italiane, Domenica d'Agosto di Luciano Emmer è il più grande film neorealista che si potesse fare. Lei vede l'Italia vera, non l'Italia dei saggi di storie, l'Italia autentica, come viveva, come si muoveva, come si divertiva, come soffriva. Lucio Dalla, dal canto suo, scrive alcune tra le più belle pagine della musica italiana e crede moltissimo al destino. Sa quanto gli deve, dall'incontro con Pupi Avati a quello Tanto per cambiare con un barista che gli ispira uno dei suoi indimenticabili successi. Se il barista del porto di Sorrento non mi avesse raccontato la storia di Caruso, che lì morì e che dava lezione a una ragazza di canto senza cantare lui perché aveva un tumore al polmone e alla gola, e stava morendo, però si era innamorato di questa giovanissima cantante che non era neanche brava, forse era anche cagna, però, e se lui non avesse sentito che la morte stava arrivando, io mi sono poi inventato il resto, non sarebbe uscito in terrazza col pianoforte, non avrebbe cantato, e lui quando cantava così forte che addirittura i pescatori con le lampare vennero sotto il suo balcone per sentirlo cantare. Era così Lucio Dalla, capace di trovare poesia in ogni angolo della realtà. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto.